English Bit di Giulia Crivelli. As Trump as big a global risk as terrorism. Si intitolava così un servizio di questa settimana del network americano NBC, che prendeva spunto da un articolo pubblicato dall'Economist. La traduzione letterale è: Trump è un rischio globale tanto quanto il terrorismo. E questa è infatti la fosca previsione del settimanale britannico in caso di vittoria di Donald Trump alle primarie del Partito Repubblicano e poi, chissà, alle presidenziali americane del novembre 2016. L'espressione che ci interessa è as, che serve a fare dei confronti. You are as tall as your father. Sei alto tanto quanto tuo padre, o più semplicemente come tuo padre. You are as white as a sheet. Sei bianco come un lenzuolo. She doesn't play as well as your sister. Non gioca tanto bene come tua sorella. I have not known him as long as you have known him. Non lo conosco da tanto tempo quanto lo conosci tu. Usata da sola, la preposizione as vuol dire come. They were dressed as clowns, che in italiano tradurremmo erano tutti vestiti da clown. The news came as a shock. La notizia arrivò e stupì tutti. Letteralmente arrivò come uno shock. Notare l'uso di news, che in inglese è sempre plurale, anche se in italiano possiamo tradurre la notizia. C'è poi l'utilizzo di as, grammaticalmente parlando, come congiunzione. He sat watching her as she got ready. Si sedette a guardarla mentre lei si preparava. As she grew older, she gained in confidence. A mano che invecchiava, aumentò la sua sicurezza. E notiamo qui il false friend. Confidence non significa confidenza, ma appunto sicurezza di sé, dei propri mezzi, del proprio aspetto fisico. As you know, altro esempio di as a congiunzione, we are leaving soon for a vacation abroad. Come sai, partiremo presto per una vacanza all'estero. Quanto alle espressioni, possiamo citare as and when, we'll decide on the team as and when they qualify. Prenderemo una decisione sulla squadra se e quando si qualificheranno. As you do, come è giusto fare, he smiled at me and I smiled back. As you do. Mi sorrise e io ricambiai, to smile back, come si fa di solito, come buona educazione. As from, a partire da. Our phone number will change as from next Monday. Il nostro numero di telefono cambierà a partire dal prossimo lunedì. Poi c'è naturalmente as soon as possible, che letteralmente vuol dire appena possibile, appena sarà fattibile, che purtroppo è stato abbreviato in americano, perché sapete che gli americani adorano abbreviare, fare questi acronimi in ASAP, e ora lo usiamo moltissimo anche noi e non so se tutti esattamente saprebbero svolgere questo acronimo. Comunque, quando in fondo a una mail trovate ASAP, vuol dire appena possibile.